Quando di bagno e nai. Ae, oh Carolina. Quando di bagno e nai. Quelli mo e poi no. Demo non gone va Carolina. Quelli mo e poi no. Demo suone va Carolina. Ae, oh Carolina. Non do di dole, oh Carolina. Demo suane ba Carolina, quedi mo e poi no. Demo non gone ba Carolina.